Ecco, questa era per l'ultima audio lezione dell'anno. Il programma è stato svolto come previsto in modo abbreviato, in forma, ecco, abbreviata data questa situazione. Peraltro, ben due audio lezioni che avevo fatto, inspiegabilmente non risultavano condivise. Io ero convinto di averle condivise in didattica, ma visto che a volte uno condivide un file, poi non so perché la condivisione scompare, o forse mi ero dimenticato, vabbè, comunque ormai le ci sono fatte, insomma, io le ho comunque caricate. Un'audio lezione su adesso, insomma, ti giuro, finché non scompare il collegamento, se cioè scompare di nuovo, comunque un'audio lezione sul canto di Ulisse, un'altra sugli ultimi canti dell'inferno. E vabbè, così. Dunque, quindi riprendiamo e concludiamo il discorso sull'età umanistico rinascimentale. Una audio lezione su Ariosto e Tasso letti in parallelo, poi ne farò un'altra su Machiavelli e Guicciardini, anch'essi letti in parallelo, brevi e sintetici testi, anche quelli ero convinto di averli condivisi, poi sono andato a vedere, invece la condivisione non c'è, o se insomma si è cancellato da solo, ero convintissimo di averli condivisi. Comunque, il barocco invece lo faremo, lo farà chi ci sarà al mio posto, insomma, comunque verrà fatto l'anno prossimo, perché vabbè, insomma, barocco si può fare alla fine del terzo anno, all'inizio del quarto, insomma. Ecco, Ariosto e Tasso possono essere letti in parallelo, anche se si tratta di un parallelismo oppositivo, entrambi legati alla città di Ferrara, alla corte estense. Tasso veramente nelle sue peregrinazioni, andò anche nelle sue sofferte, dolorose peregrinazioni, andò anche a Roma, cioè, c'era la famosa quercia del Tasso sotto la quale andava a piangere e a dolersi, ma poi fra l'altro è crollata anche la quercia del Tasso, insomma. E vabbè, e comunque ecco, due atteggiamenti però molto diversi nei confronti della corte estense, anche due fasi del Rinascimento diverse. Ariosto, tipico esponente del Rinascimento maturo, cioè quella fase del Rinascimento che approssimativamente va dal 1500 al 1530, mentre Tasso è tipico esponente del manierismo, cioè quel periodo che va dal 1530, grosso modo alla fine del XVI secolo, e prelude al barocco, perché nell'età manieristica di cui Tasso è rappresentante, le armonie e gli equilibri del Rinascimento maturo tendono ad incrinarsi, a turbarsi, a venarsi così di chiaroscuri e di inquietudini, insomma, configurando il cosiddetto autunno del Rinascimento, analogo all'autunno del Medioevo, di cui invece Boccaccio è forse il massimo rappresentante. Ecco, Ariosto, di cui si possono ricordare soprattutto le date delle tre edizioni dell'Orlando Furioso. Noi ci soffermiamo solo sull'Orlando Furioso di Ariosto e sulla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, tralasciando tutte le opere minori. Ecco, per quanto riguarda l'Orlando Furioso, per quanto riguarda Ariosto, insomma, ricordate le date delle tre edizioni dell'Orlando Furioso: 1516, 1521, 1532. Si aggiungono. Beh, quando insomma, nel 2016 fecero le celebrazioni per i 500 anni della prima edizione dell'Orlando Furioso. Speriamo che non facciano l'anno prossimo le celebrazioni per i 500 anni della seconda edizione, perché queste celebrazioni sono francamente una grande rottura di scatole, già romperanno un'anima all'inverosimile con il centenario dantesco, quindi ne avremo già abbastanza di quello. Comunque, ecco, le tre edizioni a cui si aggiungono poi i cinque canti, i cosiddetti cinque canti, che furono lasciati incompiuti, pubblicati postumi e mostrerebbero una venatura così malinconica, chiaroscurale, un po' autunnale, mentre Ariosto, per quanto riguarda Ariosto, nel complesso continua ad essere valida la definizione di poeta dell'armonia, come lo chiamava Benedetto Croce. Non è che Ariosto sia del tutto privo di tensioni, di inquietudini o di chiaroscuri, ma insomma la sua visione nel complesso è molto più ilare e molto più serena, solare, se vogliamo classica, rispetto a quella di Tasso, Torquato Tasso, che invece sarà molto amato dai romantici, in particolare da Leopardi, proprio perché introduce una venatura melanconica nella propria opera. Anche il rapporto con la corte fu molto diverso. Ariosto rivendicò e riuscì anche ad ottenere un certo margine di autonomia rispetto ai suoi protettori, in particolare rispetto al cardinale Ippolito d'Este, che Ariosto rifiutò di seguire fino in Ungheria, scrivendo nelle satire che si ispirano alle satire di Orazio, ecco, io preferisco viaggiare sulla carta geografica, ecco, viaggiare sull'Atlante, insomma non voglio viaggiare fisicamente perché si fa troppa fatica, è troppo scomodo, è scomodo anche oggi, figuriamoci, ai primi del Cinquecento. Ecco, il discorso di Tasso è molto diverso perché la vita di Tasso fu segnata dalla follia. Non sappiamo esattamente quale tipo di follia fosse quella da cui era afflitto Tasso, ma sembra si possa parlare di schizofrenia paranoide, perché nell'epistolario, nelle insomma, nelle interessanti lettere della follia, ecco, Tasso riferisce, insomma, di voci che sentiva nella propria mente, di folletti o demoni che gli facevano dei dispetti o volevano avvelenargli la minestra, insomma, nella celletta in cui si era ridotto a vivere, nel manicomio di Sant'Anna a Ferrara, in cui era stato rinchiuso, dopo aver insultato niente meno che il duca e la duchessa Estensi in persona durante una festa di corte, insomma. Il duca e la duchessa prestavano più attenzione a un giullare che a lui, il quale aveva chiesto più volte di essere ascoltato. Allora Tasso si infuriò, osò insultare il duca e la duchessa, insomma, e anziché metterlo in prigione, frustarlo, cacciarlo via, disse: vabbè, è sicuramente impazzito, e lo rinchiusero nell'ospedale di Sant'Anna, in cui fra l'altro Tasso ricevette la visita di Montaigne, Michel de Montaigne, filosofo che forse non avete studiato quest'anno, anzi oggi a scuola non si studia quasi più. Ad ogni modo c'è questa lettera, non questa lettera, ma questo passo di Montaigne, che, ecco, in uno dei suoi saggi, nella Apologie de Raymond Sebond, insomma uno dei saggi, degli essai di Montaigne, con Michel de Montaigne, dichiara di aver incontrato Tasso, anche se qualcuno ha messo in dubbio la storicità di questo incontro, insomma. È interessante l'osservazione di Montaigne, il quale dice: il genio poetico spesso sconfina nella follia, ecco. Dal genio alla follia il passo può essere molto breve, perché la mente del poeta, una mente sovreccitata, una mente piena di visioni, di immagini, di pensieri, di analogie, di metafore, questa frenetica attività mentale può condurre alla follia. No. Dice: Ecco, c'è questa continua tensione della ragione che rende l'uomo privo di ragione, una curiosa e laboriosa ricerca delle conoscenze che conduce alla stoltezza, alla bêtise, insomma. E questa rara attitudine agli esercizi dell'anima che rendono l'uomo senza esercizio e senza anima. Bisogna proprio un eccessivo uso di queste facoltà mentali ed immaginative che può portare alla follia. E questa è forse la quintessenza indipendentemente dal fatto che l'incontro fra Montaigne, che la visita di Montaigne a Tasso sia reale oppure no, non risulta da altre fonti o da altre testimonianze, quindi alcuni ne hanno dubitato, ma anche se non fosse mai avvenuta questa visita, coglierebbe proprio in poche righe l'essenza della sensibilità tassiana, i due volti del Rinascimento proprio, quello se vogliamo armonioso, solare, luminoso di Ariosto. La pienezza, insomma, del Rinascimento, invece l'autunno del Rinascimento, c'è cioè la fase declinante, calante, melanconica, piena fra l'altro di preoccupazioni religiose, perché Tasso vive nell'età della controriforma, e che voi non avete ancora fatto in storia, per ovvie ragioni, ma insomma, l'età della controriforma, c'è cioè un periodo particolarmente austero, particolarmente rigoroso. Controriforma o riforma cattolica, come l'hanno definita altri, ma insomma un periodo in cui la Chiesa, reagendo alla riforma luterana, aveva inasprito la propria austerità, il proprio rigore morale. Fra l'altro Tasso era talmente preoccupato, talmente ossessionato da questa idea della ortodossia religiosa da chiedere egli stesso di essere esaminato dalla Santa Inquisizione. È una cosa abbastanza inusuale, perché in genere insomma, la Santa Inquisizione era temuta e uno cercava di tenersene alla larga il più possibile, invece Tasso andò lui dagli inquisitori chiedendo di essere esaminato e questi lo trovavano sempre senza pecca, non gli trovavano niente di sbagliato, ma lui insisteva, voleva farsi esaminare ad ogni costo per essere del tutto in regola. E anche per quanto riguarda la sua opera, ebbe sempre questa nevrotica ricerca di regolarità, di conformità alla norma, tanto da inviare la propria opera, la Gerusalemme liberata, man mano che la scriveva, a vari letterati, no? I censori, fra cui si potrebbe ricordare Sperone Speroni, che è forse il più significativo, anche Gian Giorgio Trissino, insomma, questi letterati che gli facevano delle osservazioni sulla conformità dell'opera alle regole della trattatistica di origine aristotelica, tanto che paradossalmente la Gerusalemme liberata non è l'opera che Tasso avrebbe voluto affidare alla posterità. Tasso riscrisse la Gerusalemme liberata intitolando la Gerusalemme conquistata. La Gerusalemme conquistata ormai non viene letta quasi più da nessuno, viene studiata soltanto così dagli eruditi. Tasso non avrebbe voluto che fosse letta dai posteri la Gerusalemme liberata, avrebbe voluto che fosse letta la Gerusalemme conquistata, che è un problema molto più pesante, meno, in cui vengono limitati i due elementi che invece rendono più moderna, più affascinante la Gerusalemme liberata, cioè l'amore e la magia, due argomenti che non erano in linea, diciamo, con l'ortodossia cattolica e che per questo vennero limitati nella repressi, insomma, con un tipico esempio proprio di repressione in senso freudiano nella conquistata. Ma andiamo con ordine, si fa per dire, insomma, confrontiamo direttamente i due proemi. Come sapete, il proemio ha sempre un'importanza fondamentale perché nel proemio il poeta, insomma, l'autore chiarisce fin dall'inizio che cosa il lettore, ecco, deve aspettarsi dalla lettura, quali saranno le caratteristiche dell'opera, che cosa deve aspettarsi, che cosa no. Allora, ho caricato, ma a questo punto non ci giurerei perché devo aver fatto un po' di confusione con questi file. Ad ogni modo, beh, insomma, in qualsiasi antologia trovate i due proemi, insomma, quello della Gerusalemme liberata e quello dell'Orlando Furioso. Allora, cominciamo con quello dell'Orlando Furioso. Sì, c'è un dovrebbe esserci lì un file confronto proemi. Comunque, il confronto si trova poi in quasi tutte le antologie, penso anche nella vostra. Io non ce l'ho qui con me, anzi non ce l'ho proprio, perché sono queste antologie scolastiche, una vale l'altra, sono quasi tutte ciarpame. Comunque, le donne, avrete studiato anche Remedi, insomma, forse lo conoscete già, al biennio l'avrete fatto, sono versi celeberrimi. Comunque, le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese, io canto, che furo al tempo che passaro i mori, d'Africa il mare e in Francia nacquer tanto. Nuscia, ascolta anche tu, già che ci sei. Le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, dai, ascolta, dai, è arrivato, dai. Ma Sento non è che noioso, ma dura poco, non è noioso, ascolta che. Vabbè, niente. Le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese, io canto, che furo al tempo che passaro i mori d'Africa il mare, e in Francia nacquer tanto, seguendo l'ira e i giovenil furori, da Gramante lor re che si dia vanto di vendicare la morte di Troiano sopra Re Carlo, imperator romano. E il poema è scritto in ottave, come vi ho già detto introducendo poi l'Orfeo del Poliziano, che non è un poema, è una favola teatrale, insomma. Comunque, quindi ottava toscana, AB, AB, AB, CC. Fino a qualche decennio fa c'erano dei famosi improvvisatori, famosi o meno famosi, ma insomma anche fra la gente del popolo, no? C'erano degli improvvisatori di ottave, insomma. Questa tradizione proprio dei cantastorie, perché questo genere del poema cavalleresco, dire il vero, la Gerusalemme liberata è un poema eroico, il precursore sia di Ariosto che di Tasso, ma soprattutto di Ariosto, era stato il Boiardo, Matteo Maria Boiardo, autore dell'Orlando Innamorato, che fondeva la materia dei due cicli, cioè del ciclo carolingio e del ciclo bretone, quindi la tematica amorosa e quella guerresca. Questa tradizione dei poemi cavallereschi affondava le proprie radici nelle chansons de geste, no, francesi, provenzali, ma c'erano anche i cantari, i poemi franco-veneti, insomma letteratura di origine orale, popolaresca, in genere di non eccelso valore letterario, ma insomma. Questi poeti prendono questo genere di origine popolare e lo innalzano al livello della letteratura d'arte, della letteratura colta, insomma, conservando però sempre qualcosa dell'originario brio narrativo, così popolaresco, legato all'oralità. In particolare in Boiardo, che effettivamente recitava i canti dell'Orlando innamorato nel castello Estense, di fronte a tutti i nobili riuniti. Le donne, i cavalieri, ecco, vedete questa prima ottava tutta occupata da un unico periodo, e notate quel io canto che riecheggia direttamente il famoso incipit virgiliano, arma virumque cano, arma virumque cano, se preferite. Cano sembra francese, ma insomma la lettura metrica, no? Arma virunque. Invece qui vedete le donne, i cavalieri, le armi e gli amori, cioè prima le donne innanzitutto, inizia con la parola donne, cavalieri e armi, quindi il tema bellico, che viene comunque trattato in modo abbastanza giocoso da Ariosto, e anche le donne e gli amori. Disposizione anche chiastica del verso, perché le donne, i cavalieri, quindi prima, amore, guerra, poi le armi, gli amori, guerra e amore, no? Le cortesie, qui cortesia non ha più il valore che aveva nel Medioevo, perché ormai questo ideale della corte medievale era rievocato come qualcosa di lontano, anche attraverso un velo di ironia. C'è quel famoso verso sempre citato: O gran bontà dei cavalieri antiqui, antiqui proprio così con grafia latineggiante, ma è chiaramente una rievocazione ironica, perché ormai si tratta di valori tramontati, non c'era più l'ideale, la cavalleria non era più come nel Medioevo, cioè non erano più i tempi della Chanson de Roland, non c'era più quel mondo feudale a cui era legata la cavalleria in origine. Le corti del Rinascimento ormai non erano più legate a quel sistema di valori, no? La società tripartita, l'impero, oratores, bellatores, laboratores, insomma, quello era un mondo ormai tramontato. Le audaci primitive, che furono al tempo che passarono i Mori d'Africa e il mare, non so perché, non saprei spiegare razionalmente, ma con questo verso, furo, passaro, Mori, mare, è come se quel verbo furo fosse riecheggiato nelle parole seguenti. È come se anche il suono, il ritmo delle parole, così rallentato con questa iterazione, o meglio questo riecheggiamento di quel furo, contribuisce a dare l'idea di una lontananza temporale, no? Che furo al tempo che passaro i Mori d'Africa, il mare, no? Furo, passaro, Mori, mare. Vabbè, comunque, può darsi che sia solo un'impressione. Cioè, passare i Mori d'Africa, il mare, vuol dire. I Mori, insomma, i musulmani passarono il Mar d'Africa e fecero tanti danni in Francia, seguendo le ire, cioè lo slancio guerresco e il furore giovanile del loro re Agramante, per il quale fu motivo di vanto vendicare la morte di Troiano sopra l'imperatore romano Carlo Magno. Questi poeti cavallereschi si divertivano a dipingere, a raffigurare Carlo Magno come un fesciacchiotto, Re Carlo dal viso giocondo, insomma, che Carlo Magno viene rappresentato sempre come uno sciocco, insomma, uno stupidotto, un sempliciotto. In effetti Carlo Magno rimase sempre analfabeta, anche proprio storicamente, ma non era sicuramente uno stupido, insomma, un ignorante molto intelligente. Di Rodo Orlando, il famoso paladino delle Chansons de Geste, di Rodo Orlando in un medesimo tratto, cosa non dette in prosa mai né in rima, che per amor venne in furore matto, d'uomo che si saggio l'ha stimato prima. E il titolo Orlando, cioè qui c'è l'idea dell'Orlando innamorato non era del tutto nuova, come sapete già Boiardo aveva fuso il tema guerresco e quello amoroso. Come dice, dirò di Orlando nello stesso tempo una cosa che non è mai stata detta né in prosa né in versi, cioè che a causa dell'amore divenne folle. Ecco, era il tema della follia amorosa che si aggiunge a quello del semplice amore, il tema dell'eroe folle, che ha qualcosa di tragico, perché in Sofocle viene rappresentata nell'Aiace di Sofocle, la follia di Aiace, nell'Hercules Furens di Seneca viene rappresentata la follia di Ercole, e se ci pensate anche il titolo Orlando Furioso ricalca Hercules Furens di Seneca, anche se insomma chiaramente Ariosto non ha nulla di tragico, scrisse delle commedie, insomma, bruttarelle. Ma ecco, Tasso invece scrisse una tragedia, ecco, il re Torrismondo, e già questo fa capire, anche quella insomma non proprio eccelsa, ma già questo fa capire la differenza fra i due poeti. che per amor venne in furore matto d'uomo che si saggio era stimato prima. Ecco, c'è da colei che tal quasi mi ha fatto, qui Ariosto si riferisce ad Alessandra Benucci, la donna di cui era innamorato e con la quale fra l'altro conviveva, così, More Uxorio, erano praticamente una coppia di fatto, cosa che ai tempi non era molto, molto frequente, non era ben accetta. Fra l'altro questa Alessandra Benucci legalmente era ancora sposata con un altro uomo, alla morte di quell'uomo Ariosto poté sposarla. Quindi anche la vita privata. La stessa cosa fra l'altro fece Galileo, cioè convivere con una donna senza essere sposato, cosa che per l'epoca non era così usuale. Comunque, da qual è che tal quasi mi ha fatto che il poco ingegno della dormirima me ne sarà però tanto concesso che mi basti a finire quanto promesso. Cioè, se Alessandra Benucci, di cui sono innamorato e che poco a poco, ad ora ad ora, mi lima, cioè mi consuma il mio poco ingegno, me ne sarà tuttavia lasciato a sufficienza per poter portare a termine la mia opera. Qui c'è l'idea della follia amorosa, no? Anche San Girolamo nel Chronicon riferisce che Lucrezio scrisse il proprio poema per intervalla insanie, cioè nei momenti di pausa, di tregua, ecco, della follia. Questo legame fra poesia, amore, follia è un legame molto stretto che risale già all'entusiasmos degli antichi, insomma, di cui parla Platone, ad esempio. Piacciavi generoso, anche se qui è tutto molto molto giocoso, insomma, il tema è trattato in modo molto leggero. Piacciavi generoso Ercule a prole, cioè la stirpe degli estensi, insomma, ornamento e splendore del secolo nostro, Ippolito d'Este, a gradir questo che vuole darvi sol polo mi servo vostro. Qui c'è il motivo encomiastico, cioè l'omaggio al potente di tu, Virgilio rendeva omaggio ad Augusto, Dante rende omaggio a Can Grande della Scala dedicandogli il paradiso, rende omaggio anche ai Malaspina, no? Onorandoli nel purgatorio, eccetera. Insomma, i poeti hanno questa abitudine di fare, non dico i leccapiedi, ma insomma di rendere omaggio ai protettori, ai potenti. Senza la loro protezione del resto non avrebbero potuto scrivere. Oggi invece uno è costretto a guadagnarsi da vivere in altro modo, insomma. E vabbè, comunque, quel che io vi debbo posso di parole pagare in parte d'opera d'inchiostro. Rimasto proverbiale questo opera d'inchiostro, anche se ormai si dovrebbe dire opera di bit, o meglio il plurale, cos'è? Byte, vabbè, non lo so, comunque. Pagare in parte d'opera d'inchiostro, né che poco io vi dia da imputare sono, che quanto io posso dare tutto vi dono. Altro verso rimasto proverbiale, qui c'è il topos della falsa modestia, cioè io vi offro la mia opera, se quest'opera è modesta, non è colpa mia, io faccio tutto ciò di cui sono capace. Voi sentirete fra i più degni eroi che nominare con lauda un apparecchio ricordare quel Ruggier che fu di voi e dei vostri avi illustri il ceppo vecchio. Cioè, secondo la leggenda, qui Ruggero era uno il cavaliere Ruggero era uno degli antenati della stirpe estense. Questa tendenza a elogiare gli antenati aveva radici antiche, perché anche per Virgilio, no, elogiare Enea significava elogiare la gens Iulia da cui, secondo la leggenda, discendeva lo stesso Ottaviano Augusto. L'alto valore e i chiari gesti suoi vi farò udire se voi mi date orecchio, e i vostri alti pensieri cedino un poco, sì che tra i miei versi abbiano luogo. Ancora la falsa modestia, cioè fate in modo, insomma, cioè abbandonate per un po' i vostri pensieri così elevati, così importanti, insomma, degnatevi di prestare ascolto anche alla mia modesta opera. Fra l'altro, quando Ariosto presentò l'opera al cardinale Ippolito, lui gli disse: Messer Lodovico, donde avete voi tratto tante corbellerie? No? Quindi, insomma, non è proprio un giudizio molto elogiativo, perché, come dire, ma sono tutte queste corbellerie, vorrebbe dire, queste stranezze, queste stupidaggini, queste cose campate per aria, insomma, da dove le avete tirate fuori, ecco, no? Quindi sì, queste opere che venivano offerte, dedicate in omaggio ai signori, non sempre venivano apprezzate a dovere. Allora, fra l'altro, nella stessa cartella in cui ho messo i testi di Ariosto e di Tasso, ci sono anche quelli che riguardano il mito di Orfeo, quindi, beh, insomma, adesso dovrebbero esserci là in didattica, se non si sono cancellati, insomma. Comunque, andando con ordine, prendiamo il proemio della Gerusalemme liberata. No, non è questo. Canto l'armi pietose e il capitano. Dove cavolo è? Aspetta, sono sì. Qui c'è questo file che ho caricato lì, insomma, se non altro sono sì, se non altro nel pregio della sintesi c'è anche un ritratto di Tasso, da cui si vede il ritratto di Torquato Tasso a Palazzo Pitti. Qui si vede proprio benissimo lo sguardo malinconico e pensieroso. Non sembra lo sguardo di un pazzo, ma insomma di uno molto malinconico, triste, meditabondo, no? Con questi libri lì dietro. Una rappresentazione del letterato melanconico. Allora, praticamente, ecco, canto l'armi pietose il capitano, vedete, no? L'antecedente diretto in entrambi i casi è il proemio di Virgilio, arma virumque cano, eccetera, eccetera. In questo sì, solo che qui, vedete, Tasso mette il verbo canto all'inizio, mentre Ariosto lo pospone, vabbè, questo è un dettaglio. Comunque, vedete, qui non ci sono le donne e gli amori, qui c'è proprio arma virumque, l'armi e il capitano, le armi che però sono pietose. Il concetto di pietas era tipico di Virgilio, ma Tasso lo rivisita ovviamente in chiave cristiana. Cioè, Enea era pio, come pio era l'imperatore Augusto, pietas nel senso di devozione alle tradizioni, agli antenati, ai riti atavici, mentre nel caso di Tasso la pietas va intesa in senso cristiano, perché a differenza di Ariosto, che fondamentalmente se ne infischiava della religione, Tasso invece aveva una sofferta spiritualità cattolica controriformista molto cupa e alimentata anche, e nello stesso tempo alimentante, la sua nevrosi. Quindi canto le armi pietose nel senso di mosse dalla fede, e il capitano, cioè Goffredo di Buglione. Ecco, la Gerusalemme liberata è un poema in cui ci sono anche elementi leggendari, la magia, soprattutto la magia associata a qualcosa di diabolico. La magia è tipica dei musulmani, dei nemici, cioè qualcosa di diabolico, mentre in Ariosto le magie sono qualcosa di giocoso, di divertente, insomma. E ecco, il capitano, cioè Goffredo di Buglione, personaggio storico, il poema si riferisce alla prima crociata che ebbe luogo realmente, anche se Ariosto aggiunge ai fatti storici ovviamente molti elementi leggendari, storie così, però tipiche della tradizione cavalleresca, quindi magie, sortileggi, apparizioni, sparizioni e via discorrendo, che il Gran Sepolcro liberò di Cristo. Lo scopo dei crociati era quello di liberare il sepolcro di Cristo ancora occupato dai musulmani. Molto gli operò col senno e con la mano, molto soffrì nel glorioso acquisto. Mens et manus era questo binomio, cioè l'azione e cioè il pensiero, la riflessione e l'azione. Molto egli operò, molto egli agì con il senno, cioè con l'intelletto e con la forza. Molto soffrì, questo soffrì riecheggia il passus est di Virgilio, ma anche in Omero c'è cioè questo verbo paschein, pascono, praticamente pathos, pathema. Significa sofferenza ma anche conoscenza. Molto soffrì nel glorioso, anzi, questo Andre Moyenne per Mosi, per Utropon, Osma la Polla, eccetera, eccetera. Questo molto soffrì è un calco proprio da Omero più che da Virgilio, nel glorioso acquisto, cioè nella gloriosa conquista, qui acquisto significa conquista, cioè quella del sepolcro. E invan l'inferno vi soppose, invano sermodace di Libia il popolo misto. Ecco, Tasso, con un atteggiamento che oggi definiremmo quasi xenofobo, anche se è un anacronismo, perché poi Tasso non faceva riferimento al concetto di razza, il suo era un discorso religioso. Tuttavia, Tasso dipinge i nemici dei cristiani come popolo misto, cioè una mescolanza di popoli, di etnie diversi, tanto che si è osservata questa contrapposizione fra l'uniforme cristiano e il multiforme pagano, cioè il mondo islamico proprio. Anche proprio per la sua vastità e per il suo carattere composito, appare a Tasso il regno del caos, del disordine, della mancanza di punti di riferimento, mentre il mondo l'esercito cristiano gli appare unito, coerente, coeso, uniforme, no? Anche se non lo era, perché poi anche la cristianità era lacerata da lotte fra cattolici e protestanti, e anche all'interno degli stessi protestanti le rivalità fra le diverse correnti, insomma. Ma c'è questa idea dell'uniforme cristiano, del multiforme pagano, così come contrapposti. Il ciel gli diè favore, sotto i santi segni ridusse i suoi compagni erranti, il sacrosanto segno, espressione dantesca. Il sacrosanto segno è la croce, ovviamente, cioè no, il sacrosanto segno in Dante è l'aquila imperiale, veramente, a cui comunque Dante, nel sesto canto del Paradiso, attribuisce anche un significato religioso, cioè il potere imperiale era legato anche al potere ecclesiastico, quindi aveva anche un significato religioso. Qui i santi segni sono le sacre insegne dell'esercito cristiano, dell'esercito crociato. Ridusse i suoi compagni erranti. Ecco, errare, errante, errore, è una parola chiave anche per Ariosto, solo che in Ariosto il concetto di errore, errare, è qualcosa di giocoso, di fiabesco, di fantasioso, insomma. Ha una connotazione positiva, mentre in Tasso ha un significato simile a quello che ha in Dante, cioè l'errore è letteralmente lo smarrimento nella selva del peccato. O Musa, tu che di caduchi allori non circondi la fronte in elicona, ma su nel cielo, in fra i beati cori, hai di stelle immortali, aurea corona, tu spira al petto mio celesti ardori, tu rischiara il mio canto e tu perdona, se in te soffrigi al vero, si adorna in parte da altri diletti che dei tuoi le carte. Qui Tasso contrappone alla musa pagana una musa cristiana che viene identificata quasi con l'iconografia della Vergine Maria, della Madonna, ai di stelle immortali, aurea corona, no? Un po' la rimmagine petrarchesca della Vergine bella che di sol vestita, no? L'incipit dell'ultimo componimento del canzoniere di Petrarca. Tu spira, dice, spira tua, siccome quando Marsi atresti della vagina delle membra sue. Questo tu spira è un'eco dantesca, cioè dice, o musa cristiana, dice, ispira, diciamo, soffia nel mio petto celesti ardori, cioè passioni celesti, amori celesti, paradisiaci. Ecco, dice, beh, perdonami se intesso frigi al vero, cioè se aggiungo qualcosa alla verità. Se mescolo la realtà e l'invenzione, sai che la corre il mondo più versi di sua dolcezza e lusinghi il Parnaso, e che il vero condito in molli versi più schivi allettando a persuaso. Così allegro fanciul porgiamo a spersi di soavi licor gli orli del vaso, su chi amare ingannato intanto i beve dall'inganno suo vita riceve. Insomma, qui Tasso dice: perdonami, o musa cristiana, se io mescolo verità e invenzione, perché anche la verità, per poter essere comunicata in modo più efficace, più piacevole, deve essere mescolata con qualche elemento immaginario, con qualche elemento fiabesco. E qui c'è questa similitudine che Tasso trae da Lucrezio, dal Verorum Natura di Lucrezio. Cioè, Lucrezio dice: bisogna abbellire con la poesia i concetti filosofici, o in questo caso, nel caso di Tasso, i concetti religiosi, teologici, perché ecco, allo stesso modo i bordi del recipiente in cui si trova la medicina amara vengono cosparsi di miele, in modo tale che il bambino ingannato dalla dolcezza del miele beva la medicina amara, e c'è questo verso spedito, e dall'inganno suo vita riceve. Cioè, rimane ingannato, ma da questo inganno riceve vita, cioè la salute sarebbe. Ecco, è un po' il concetto dantesco di veritate ascosa sotto bella menzogna. Ecco, veritate ascosa sotto bella menzogna. Nello stesso file avete, beh, no, aspetta, andiamo con ordine, quindi prima torniamo a Tasso, da Tasso, torniamo ad Ariosto, cioè leggiamo Astolfo sulla Luna, c'è l'omonimo file, Astolfo sulla Luna, praticamente nella finzione ariostesca Astolfo, il cavaliere Astolfo, viene mandato a cavallo dell'ippogrifo. Che c'è? Ah. Eh sì, dai, grazie. A cavallo dell'ippogrifo volante. Ai miei tempi, quando ero bambino io c'era La storia infinita, c'era quel film con quel bambino che andava nello spazio a cavallo di questo animalone bianco volante. Il film era tratto da un romanzo di Michael Ende, che anzi si dirà forse Michael Ende, perché non credo fosse tedesco, ma comunque credo che adesso sia tutto passato di moda, ma insomma all'epoca, adesso va di moda Tolkien, all'epoca andava di moda La storia infinita di questo Ende, e anche lì c'era Empoli Napoli, Domodossola Empoli, se vi piace il genere, io non ne vado pazzo, ma insomma anche lì c'era il bambino che andava per lo spazio con questa specie di cagnone volante bianco, vabbè. Comunque, molta fama era su che come ta, ecco, no, Ariosto immagina con questo giocoso rovesciamento della realtà, tipico esempio di mondo alla rovescia, di straniamento se preferite, insomma, immagina che Astolfo vada a recuperare il senno di Orlando ecco, sulla Luna. E Ariosto immagina che tutte le cose che l'uomo ha perso sulla Terra vadano a finire là, sulla Luna. Vabbè. Sono queste le corbellerie di cui parlava il Ippolito, no? Quando gli portò l'opera, dice: dove avete tratto tante corbellerie? Qui in realtà Ariosto è molto vicino a Erasmo da Rotterdam. Erasmo da Rotterdam, l'elogio della follia, encomium morie, l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. Anche lì c'è un po' il mondo alla rovescia, perché viene elogiata la follia come se fosse una cosa positiva, mentre quella che normalmente viene considerata saggezza è la vera follia. Insomma, c'è questo ribaltamento che poi si trova in altri autori anche, no? Ma dice: molta fama era su che come tarlo, il tempo a lungo andarque, il tempo a, qui c'è alma, sarà a senza, vabbè, comunque, il tempo a lungo andarque giù divora, lassù infiniti prieghi e voti stanno, che da noi peccatori a Dio si fanno. Vedete anche la visione così di sacratoria della religione, di sacranta della religione che ha Ariosto. Fra l'altro Ariosto immagina che Astolfo sia condotto sulla luna da San Giovanni, addirittura, il quale, in quanto autore dell'Apocalisse, era un esperto di mondi ultraterreni. San Giovanni dice: sulla terra fui scrittore, fui scrittore anch'io. Non c'è qui in questo brano, almeno in questo PDF, che dovrebbe trovarsi là in didattica, ma sul vostro libro avrete sicuramente anche un estratto più ampio. Comunque, questa è l'ottava 74, canto 34, ottave 74 e seguenti. Comunque basta cercare su qualsiasi sito le parole, insomma, si trova molto facilmente. Molta fama era su che come tarlo, il tempo lungo andare qua giù divora, lassù infiniti pieghi e voti stanno, che da noi peccatori a Dio si fanno. Le preghiere e le promesse, insomma i voti che i fedeli rivolgono a Dio e che restano poi inadempiuti, finiscono sulla luna, perché sulla luna finisce tutto ciò che va perduto qua sulla terra. Un po' come nel film di... quello è un capolavoro, altro che La storia infinita, Solaris di Tarkovsky, di Andrei Tarkovsky, tratto dal romanzo di un polacco, insomma dall'opera di un romanziere polacco. È stato fatto anche un remake americano di Solaris di Tarkovsky. Beh, Solaris è una sorta di questo pianeta, insomma, Solaris è una sorta di doppio della Terra, in cui si trova una sorta di dimensione parallela o di proiezione delle speranze o dei rimpianti o dei rimorsi o delle illusioni dei terrestri, no? Quindi è una grande allegoria, poi anche difficile da interpretare univocamente come tutti i capolavori, insomma. Solaris di Andrei Tarkovsky. Le lacrime, i sospiri degli amanti, l'inutile tempo che si perde a giuoco, l'osso lungo di uomini ignoranti, i vani disegni che non ha mai loco, i vani desideri sono tanti che la più parte ingombran di quel loco. Ciò che insomma qua giù perdesti mai, lassù salendo ritrovar potrai. Vani disegni, vani desideri, l'osso, l'inutile tempo, insomma, le lacrime, i sospiri degli amanti, notate. Anche l'amore appare come un'illusione, no? Una perdita di tempo. Beh, spesso lo è, in effetti, no? E quante volte uno soffre inutilmente per persone che non lo meritano, eccetera. Qui Ariosto riecheggia Petrarca, no? Questa, no? Vani disegni che non hanno mai luogo, vani desideri, lacrime, i sospiri degli amanti. Soprattutto il Petrarca dei trionfi, direi, nei trionfi di Petrarca, se non sbaglio, abbiamo letto il trionfo dell'amore, il trionfo della morte, il trionfo dell'eternità, quando, prima diciamo della chiusura, e abbiamo già affrontato questo tema, no? Vabbè, comunque, dice: ciò che insomma qua giù perdesti mai, lassù salendo ritrovar potrai. Il tono lui così ironico e scanzonato, no? passando il paladino per quelle biche, or di questo, or di quel, chiede la guida, che è San Giovanni. È chiaramente una parodia di Virgilio, guida di Dante, no? Questo San Giovanni, guida di Astolfo, ecco, una parodia del viaggio dantesco. Vide un monte di tumide vesciche che dentro pare aver tumulti e grida, e seppe che erano le corone antiche degli Assiri e della terra lida, e dei Persi e dei Greci che già furono incliti ed orna quasi il nome oscuro. Ancora questo suono, furo oscuro, dà l'impressione di una lontananza temporale, come nel proemio, no? Che furo al tempo che passaro i mori d'Africa, il mare. Vabbè. Comunque, ecco, le immagini che qui si vedono sono come emblemi araldici o come imprese allegoriche, no? Queste figure che andavano molto di moda nel Rinascimento, c'erano anche le grottesche, no? Queste figurazioni allegoriche fanno pensare un po' alle decorazioni, c'erano anche le raffaellesche, no? Ma anche alle immagini araldiche della tradizione, no? Degli stemmi nobiliari. Ma queste sono immagini sgradevoli, cioè delle vesciche gonfie e sibilanti che rappresentano queste glorie ormai dimenticate. Ami d'oro e d'argento appresso vedi una massa, che erano quei doni che si fanno con speranza di mercede, cioè di ricompensa, ai re, agli avari principi, ai patroni. Questi ami d'oro e d'argento sono le offerte che si fanno inutilmente a degli uomini potenti sperando di ricavarne qualcosa in cambio. Vede in ghirlande ascosi lacci e chiede ode che sono tutte adulazioni. Lacci nascosti nelle ghirlande, le adulazioni, cioè sono dei complimenti che vengono fatti sperando di avere qualcosa in cambio, ecco. L'arte della adulazione, o dell'eccapiedismo per dirla in modo un po' più volgare, è un'arte importantissima nella vita, ha un'importanza fondamentale. Senza quella di strada se ne fa poca, solo che, come tutte le arti, bisogna anche essere abili nel praticarla. Se uno non ha l'arte dell'adulazione, è inutile che provi a fare l'adulatore, perché si rende solo ridicolo. Quindi, se non avete la qualità innata dell'eccapiedismo, lasciate perdere, perché vi rendete ridicoli per niente. Dici, cane scoppiate, immagine hanno versi che in laudo dei signori si fanno. Ecco, questa è un'immagine davvero terrificante, perché un poeta che dice i versi scritti in lode dei signori sono come cicale scoppiate, ma praticamente Ariosto sta dicendo che anche la sua opera rischia di non valere niente, di essere così vuota, un mucchio di parole vuote. Di nodi d'oro, di gemmati ceppi, vede canforma i malseguiti amori. Ecco, vedete, nodi d'oro e catene di diamante, immagine petrarchesca chiaramente, in particolare nel Secretum di Petrarca, cioè nel Petrarca latino si trova questa immagine. Il cuore dell'innamorato è come avvinto da catene di diamante, immagine bellissima, le catene di diamante sono preziose, splendenti, ma anche dolorose. Veran d'aquile artigli e che fur seppi l'autorità che ai suoi danno i signori. Qui c'è una critica del potere, perché il potere che, o meglio, l'autorità che i signori conferiscono ai propri immediati sottoposti sono come artigli d'aquila. Qui, anche se in modo ironico, in modo velato, Ariosto condanna la crudeltà, la malvagità e anche l'avidità, la rapacità del potere. I mantici che intorno a pieni greppi sono i fumi dei principi e i favori che danno un tempo ai Ganimedi suoi che se ne vanno col fiore degli anni poi. Questo vuol dire, questa è un'immagine che indica il fatto che, insomma, no, i cortigiani finché sono giovani e belli vengono apprezzati dai signori e poi si riducono ad essere dei vecchi gentiluomini di corte, oppure vengono, insomma, diventano dei poveracci e vengono lasciati al proprio destino. Ruine di città e di castella stavano con gran tesoro quindi sopra. Domanda e sa che sono trattati e quella congiura che si mal par che si cuopra. Quindi sono punti di contatto, se vogliamo, fra Ariosto e Machiavelli, perché no, fin dei conti sono pressoché contemporanee le due opere, no? Il principe di Machiavelli e il la prima edizione dell'Orlando Furioso di Ariosto, 1512 o 13, non me lo ricordo mai. Il Principe è 1516, la prima edizione dell'Orlando Furioso di Ariosto. Qui appare l'ingannevolezza del potere, cioè città e castelli in rovina, sovrastati da grandi tesori, e questi rappresentano trattati che vengono violati, patti che vengono infranti, e congiure che vengono scoperte, che vengono alla luce. Vide serpi con faccia di donzella, di monetiere, di ladroni l'opra. Poi vide bocce rotte di più sorti che era il servir delle misere corti. Dice, serpi, praticamente i falsari, i ladri, sono rappresentati come serpenti dai visi di fanciulla. Immagine terrificante. Bocce rotte sono, ecco, il servir delle misere corti. Qui Ariosto fa riferimento anche a se stesso, se vogliamo, perché in fin dei conti anche lui. Beh, Ariosto non era, a dire il vero, non era soltanto un adulatore, un volgare adulatore, un semplice leccapiedi. Ariosto aveva avuto anche incarichi di una certa importanza, un incarico di governatore, fra l'altro, se non ricordo male, in Garfagnana, cioè una regione che era anche molto difficile da governare, e Ariosto, insomma, perché era una regione infestata dai briganti, e sì, non bisogna immaginare, ecco, perché leggendo Ariosto ha l'impressione di un uomo superficiale, di un uomo così senza valori, un giocherellone, un burlone, un perdigiorno, uno che prendeva in giro tutto, non prendeva niente sul serio. Invece Ariosto ebbe anche degli incarichi di una certa importanza, fra cui quello di governatore in Garfagnana, regione infestata dai briganti, che Ariosto si trovò anche a fronteggiare, e come governatore della Garfagnana diede anche buona prova di sé, quindi non era soltanto un cortigiano, un leccapiedi, un perdigiorno che scriveva corbellerie, insomma, sapeva anche impegnarsi in qualcosa di serio quando gli veniva richiesto. Fra l'altro, beh, questa è un'altra storia, perché ci sarebbe un collegamento con Guicciardini, ma per ora lasciamo perdere. Allora, dice, vabbè, comunque ci fermiamo qua. E beh, insomma, Astolfo trova l'ampolla con il senno di Orlando, perché su questa ampollina c'era proprio scritto senno di Orlando, no? Fa ridere un po' questa cosa, perché uno va sulla luna per cercare il senno di Orlando, come fa a trovarlo? Cioè, questa ampollina con scritto sopra senno di Orlando. E lui dice Ariosto, cioè, trovò anche lì le ampolline con il senno di tante persone che pensavano ne avessero per nulla, invece lì scoprì che ne avevano poco. Ecco. Questa è una cosa che fa abbastanza ridere. Pensavo che non ne avessero per nulla, invece andando lì scoprì che ne avevano poco. Nuccia, vieni qua un attimo. Senti questa. Andò sulla luna e trovò il senno di persone che pensava non ne avessero per nulla, invece scoprì che ne avevano poco. Non ho perso il Non soggetto. fa ridere. Infatti non ride mai nessuno per Ho questa perso il battuta, si soggetto. vede che non fa ridere, ma a me sembra così divertente. Poi Ma qual era il uno va soggetto? sulla Luna per cercare il senno, l'intelligenza della persona, e trova, per trovare, e trova un'ampollina, un vasettino con scritto sopra senno di Orlando. Vabbè. Orlando Furioso. Appunto, bravo, Orlando Furioso. Vabbè, niente, queste sono cose. Ecco, purtroppo non è che questa letteratura faccia proprio sbellicare dalle risate, insomma. Anche se uno legge, che ne so, le commedie di Goldoni, ma anche quelle di Aristofane, quelle di Plauto, questo. È difficile che questa letteratura che si studia a scuola faccia proprio sbellicare dalle risate. Si dice che bisognerebbe leggere il Baldus del Folengo, ma anche quello non è che faccia proprio ridere a crepapelle, insomma. Vabbè, comunque. Ecco, in questo PDF che si dovrebbe trovare in didattica c'è anche un brano di Leon Battista Alberti. dalle Intercenales di Leon Battista Betti, che costituisce la fonte diretta dell'episodio di Astolfo sulla Luna. Non si sapeva esattamente quale fosse la fonte, l'antecedente diretto, perché chi studia letteratura ha un po' questa fissazione di cercare a tutti i costi la fonte, il modello. Non si era mai riusciti a trovare la fonte, l'antecedente preciso di questo, di questa rappresentazione ariostesca della Luna. Di solito i commenti citavano dei brani dell'Elogio della Follia di Erasmo da Rotterdam, riferimenti che sono anche pertinenti, ma la fonte diretta è questo brano delle Intercenales di Leon Battista Alberti. Nel paese dei sogni si ritrova tutto quello che si è perso. In mezzo ai campi ci sono gli antichi imperi ricordati dagli storici, le cariche, i benefici, gli amori, le ricchezze e molte altre cose di questo genere, che una volta smarrite non tornano mai alla luce. Certo, sono enormi vesciche, piene di adulazione, di menzogne, di flauti e trombe risonanti. Lì vicino si trovano i benefici, sono ami d'oro e d'argento. Ci sono poi ali di piombo, dicono che sono le cariche pubbliche. Là vicino ci sono manette e ceppi ardenti. Vengono chiamati amori. Nella polvere poi ci sono infiniti nomi di cittadini, scritti con lo stiletto. Cioè con lo stiletto, insomma, un punteruolo che si usa per scrivere, si usava per scrivere. Insomma, a farla breve, nel paese dei sogni trovi di tutto tranne la pazzia. Cioè, Don Battista Alberti dice, no, la pazzia è tutta sulla terra, ecco, nel mondo dei sogni non c'è. Ariosto invece ribalta questa rappresentazione, dice, no, anche sulla... Beh, no, veramente lui dice che sì, la follia si trova sulla terra, è il senno, è l'intelligenza che è finita là, è la saggezza che è finita là sulla luna, perché gli uomini l'hanno persa, ecco. Allora, dunque, vediamo un po', andando avanti, ecco, sempre per quanto riguarda la rappresentazione dell'amore, nella Gerusalemme liberata di Ariosto, cioè di Buonanotte, nella Gerusalemme liberata di Tasso, trovate uno dei passi più celebri, anche se ormai, anche se insomma io non stravedo né per questo brano né per la versione musicata di Claudio Monteverdi, ho messo anche quello in didattica, insomma, questo brano della Gerusalemme liberata, canto 12, ottave 64 e seguenti, cioè su tutte le antologie possibili e immaginabili. In questo PDF c'è anche la parafrasi a fronte, quindi è anche comodo. Ah, ecco, questo è il duello di Tancredi e Clorinda. Praticamente Tancredi è un principe cristiano del quale si è innamorata la principessa Erminia. Erminia è una principessa musulmana che si è innamorata di Tancredi per la grande cortesia che egli ha dimostrato durante la prigionia di Erminia. Ecco, Tancredi invece è innamorato di Clorinda. Questa Clorinda è una guerriera donna musulmana, sia in Ariosto che in Tasso ci sono queste amazzoni, insomma, queste figure di guerriere donne che a volte sono ancora più forti degli uomini. E ecco, quindi Tancredi combatte contro Clorinda senza sapere che si tratta di Clorinda, perché lei indossa un'altra armatura, non quella sua solita, e quindi, beh, non vi anticipo nulla perché altrimenti si rovina la suspense. Tancredi non sa ancora che sta combattendo contro Clorinda, ma ecco ormai l'ora fatale è giunta che il vivere di Clorinda è il suo fin deve. Beh, qui non c'è più la suspense perché aveva già detto come va a finire, ma insomma. Spinge egli il ferro nel bel sen di punta che vi si immerge, il sangue avido beve, e la veste che d'or vago trapunta le mammelle tenea, stringea tenera e lieve, l'empie d'un caldo fiume, Ella già sente morirsi e il Pierre manca igro e languente. Coppia di termini che fa pensare a Petrarca, no? Igro e languente, insomma, questa è una tipica di dittologia di stampo petrarchesco, no? Insomma, quello che dovrebbe essere, che vorrebbe essere un abbraccio amoroso, paradossalmente diventa invece uno scontro mortale. Qui c'è questo legame fra Eros e Thanatos, questa mescolanza molto torbida, diciamo, di Eros e Thanatos. L'ora fatale, fra l'altro, non sembra nemmeno un modo di parlare consono ad un poeta cristiano, perché l'ora fatale, un cristiano non dovrebbe credere nel fato, cioè in un destino immutabile, invece questa è ora fatale, sembra proprio una situazione così da tragedia greca. Segue egli la vittoria e la trafitta vergine minacciando in calza e prime. Ella, mentre cadea la voce afflitta movendo, disse le parole estreme, parole che a lei nuovo un spirito ditta, spirito di fede, di carità, di speme, virtù cor Dio le infonde, se rubella in vita fu la vuole in morte ancella. Rubella qui vuol dire infedele. Ecco, diciamo, nei poemi cavallereschi, anche, cioè, già nell'Orlando innamorato del boiardo, c'era questo motivo del cavaliere musulmano che in punto di morte chiede di essere battezzato. Quindi il cavaliere musulmano sconfitto che in punto di morte chiede di essere battezzato. Ovviamente era soltanto un topos letterario, insomma, che anche se a dire il vero Tasso ci credeva davvero nell'idea di crociata, paradossalmente un poeta rinascimentale come Tasso, da questo punto di vista ragionava ancora come un uomo del Medioevo, credeva ancora profondamente nell'idea di crociata, anche perché nel 1571 c'era stata la battaglia di Lepanto, insomma lo scontro fra lo scontro di civiltà, come è stato chiamato, poi è ancora vivo il ricordo della caduta di Costantinopoli, quindi questa idea dello scontro di civiltà, come viene chiamato oggi, no, termine introdotto da Samuel Huntington, no, il politologo, spesso si sente parlare di scontro di civiltà per riferirsi alla contrapposizione fra l'Occidente, che ormai non è più un Occidente cristiano, diciamo un Occidente capitalistico, insomma praticamente la coalizione della NATO da una parte e il mondo, insomma, orientale, che ovviamente non è tutto identificabile con l'integralismo islamico, non è che tutto che da una parte ci siano gli americani, gli anglo-americani che sono i buoni e da quell'altra invece siano tutti integralisti islamici, è una generalizzazione indebita oggi, ma in quest'epoca effettivamente lo scontro di civiltà era molto sentito. In questo senso alcuni elementi proprio della storia medievale, basti pensare alla mitizzazione della battaglia di Poitiers, che in realtà fu una battaglia minore, marginale, di cui le fonti arabe parlano a malapena, accennano appena, insomma, a questo evento. La rotta di Roncisvalle, quella che ispirò la Chanson de Roland, quella non aveva proprio nulla a che vedere con i musulmani, perché la rotta di Roncisvalle in realtà furono dei briganti baschi che aggredirono i cristiani, i musulmani non c'entravano proprio niente, fu anche quella una scaramuccia, insomma un agguato, un'imboscata, ma insomma un evento che di per sé non aveva grande rilevanza, successivamente fu mitizzato. Ma per questa idea dello scontro di civiltà effettivamente c'è una continuità fra il Medioevo e il Rinascimento. Allora, comunque, ecco, c'era questo topos, questo motivo ricorrente del guerriero musulmano che in punto di morte chiede di convertirsi al cristianesimo e viene battezzato di solito in un ruscello, in una piccola sorgente, così, e questo è quello che accade proprio anche nel caso di Tancredi e Clorinda. Dice poco, aspetta, dove è finito? Dice: se Rubella in vita fu, la vuole in morte ancella. Vedete l'antitesi in vita, in morte. Ariosto è un poeta in cui si trovano molte antitesi, molti ossimori, insomma, è un poeta il cui stile rispecchia non tanto l'armonia, come nel caso di Ariosto, non tanto la serenità, quanto una visione molto sofferta, piena di contrasti e di contraddizioni. Qui c'è un verso, uno dei più citati anche nei trattati di metrica, nei libri che parlano di metrica. Amico, hai vinto, io ti perdono, perdona tu ancora, al corpo no, che nulla pave, all'alma sì, deh per lei prega, ed ora battesmo a me con mia colpa lave. Anche dal punto di vista metrico, la versificazione di Ariosto, la versificazione di Tasso è molto diversa da quella di Ariosto. In Ariosto tende a prevalere una versificazione piana, uniforme, scorrevole, fluida, senza contrasti troppo aspri. Invece questo è un verso tipicamente tassiano. Amico, hai vinto, e qui c'è una cesura molto forte sottolineata dai due punti. Io ti perdono, perdona tu ancora, vedete, chiasmo rafforzato dall'enjambement. Dice, amico, hai vinto, io ti perdono, perdona anche tu, non al corpo che non ha nessuna paura, bensì all'alma, all'anima, cioè questa contrapposizione platonica fra il corpo e l'anima. Prega per lei, cioè per l'anima, e donami il battesimo che lavi ogni mia colpa. In queste voci languide risuona un non so che di flebile e soave. Toni petrarcheschi, no? Vedete, prima ci sono suoni aspri, qui, no? Amico, hai vinto, io ti perdono, perdona tu ancora, il corpo no, che nulla paga. Queste dentali danno un'idea anche di scontro, di contrasto, mentre qui in queste voci languide risuona un non so che di flebile, soave, queste S, queste L, no? Queste sibilanti e queste liquide danno un senso di dolcezza. In queste voci, cioè in queste parole, vuol dire, languide risuona un non so che di flebile soave, un non so che, nescio quid, cioè questa espressione, un non so che, dà anche un senso di indeterminatezza, di indefinito, che al cor gli scende da ogni sdegno ammorza, e gli occhi a lagrimargli invoglia e sforza. Quindi questa dolcezza della voce di Clorinda scende nel cuore di Tancredi, che non sa ancora chi è il nemico che ha sconfitto. Dice, poco quindi lontano nel sen del monte scaturì mormorando un picciorrio, tipico esempio di locus amenus, no? Il luogo in cui avverrà il battesimo. Dice, egli v'accorse l'elmo in piena nel fronte, tornò mesto al grande ufficio e pio. Qui notate c'è una solennità, una lentezza anche cerimoniale dei gesti, che fa pensare al purgatorio di Dante. Tremare sentì la mano mentre la fronte non conosciuta ancor sciolse e scoprio. Gli trema la mano mentre sfila l'elmo del guerriero che ha appena ucciso. La vide, la conobbe, restò senza e voce e moto. Hai vista, hai conoscenza. Questo è il momento in cui Tancredi si accorge di aver ucciso la donna amata. Pensate, combatte aspramente contro un guerriero ancora sconosciuto, e toglie l'elmo e si accorge che era la donna amata. Non morì già, che sua virtù di accolse tutta in quel punto e in guardia al cor le mise. Espressione, questo virtuti fa pensare al dolce stil novo, era il termine che negli stil novisti, che facevano riferimento alla filosofia verroistica, no? Indicava le facoltà percettive dell'anima e dell'intelletto. Dice, in guerra del colle mise, premendo il suo affanno a darsi, volse vita con l'acqua che col ferro uccise. Vita, e qui c'è ancora un'immagine simile a quella del proemio, no? Ingannato intanto i beve e dall'inganno sua vita riceve. Qui per vita si intende la risurrezione, la vita dell'anima dopo la morte, grazie al perdono cristiano. Ecco, vedete l'antitesi, vita con l'acqua a chi col ferro uccise, antitesi e chiasmo, cioè attraverso il battesimo Tancredi dà vita con l'acqua a colei che aveva ucciso con la spada. Mentre egli il suon dei sacri detti sciolse, colei di gioia trasmutossi e rise, e in atto di morire lieto e vivace, notate l'ossimoro, no? la morte che è lieta, perché anzi addirittura una morte vivace, cioè una morte piena di vita, perché è una morte cristiana che prelude alla vita ultraterrena. Dir parea, s'apre il cielo, io vado in pace. D'un bel pallore al bianco volto asperso, come agilis aria miste viole. Qui è evidente il riferimento a Petrarca, al trionfo della morte di Petrarca. Morte bella parea nel suo bel viso, no? La visione di Laura morta, no? Parea posar come persona stanca, no? Come un dolce dormire nei suoi begli occhi, sendo lo spirito già da lei diviso, era quel che morir chiaman gli sciocchi. Morte bella parea nel suo bel viso, no? Quel verso è rimasto celebre. Come agigli saria miste viole, questa è un'immagine stereotipata, no? Come se, diciamo, no, il candore delle carni, insomma, asperso di rossore, e gli occhi al cielo affise, in lei converso, sembra per la pietade il cielo e il sole. Pietade, parola chiave, per Tasso come per Virgilio, cioè pietade nel senso di pietas, di devozione. La morte di Clorinda implicitamente viene paragonata a quella di Cristo, cioè è come una morte al cui dolore partecipa tutto il creato, no? In quel momento si fece buio su tutta la terra. E la man nuda e fredda alzando verso il cavaliere invece di parole gli dà pegno di pace. In questa forma passa la bella donna e par che dorma. Cioè dà un segno di pace, insomma, all'uomo che l'ha uccisa. È ormai pacificata con Dio, muore, insomma, e va in paradiso. Viene in mente la Delchi di Manzoni, la tragedia Adelchi di Manzoni, no? Praticamente Adelchi che muore pregando per il suo nemico, che fra l'altro era proprio Carlo Magno, no? Dice: il tuo nemico prega per te morendo. Questa idea della morte cristiana, e anche la figura di Ermengarda nella Delchi di Manzoni ricorda molto quella della Clorinda di Tasso, cioè la fanciulla che muore perdonando e, insomma, affidandosi a Dio, insomma, e andando in paradiso, no? Sparsa le trecce morbide sull'affannoso petto, insomma. E dice, allora praticamente adesso rimane, ecco, la rappresentazione dell'amore in Tasso, Armida e Rinaldo. Armida e Rinaldo sì. La visione dell'amore di Ariosto e quella di Tasso sono molto diverse l'una dall'altra. Come vi ho già detto, in Ariosto prevale, per quanto riguarda l'amore, come per tutto il resto, una visione per lo più giocosa. Il vero centro, in realtà, ecco, l'Orlando Furioso non ha un vero centro, cioè il centro dell'opera è un centro mobile, perché praticamente Angelica, no, la principessa musulmana amata da tutti i cavalieri cristiani, viene promessa in premio. Questa visione a noi sembra assolutamente orrenda, insomma, si fa promettere una donna in premio a qualcuno come se fosse un'automobile, come se fosse un oggetto, però vabbè, è tutta, non bisogna prendere tutto alla lettera, insomma, tutta una finzione, insomma. Ma no, Angelica fugge e a cavallo, e tutti i cavalieri cristiani cercano di ghermirla come se fosse una preda di caccia. Carlo Magno l'ha promessa a colui che ucciderà più guerrieri musulmani in combattimento. In realtà poi questi guerrieri finiscono. Beh, in Ariosto, a dire il vero, questi guerrieri fanno quasi sempre la figura degli stupidi, insomma. Angelica è l'unica furba che riesce sempre a scappare, mentre in genere questi guerrieri sono un po' la parodia del cavaliere, Mentre i cavalieri di Tasso sono persone serie che combattono anche perché combattono non per l'amore di una donna, combattono per un ideale religioso, per sconfiggere i musulmani e conquistare il Santo Sepolcro. Invece i guerrieri di Ariosto, più che alla guerra, pensano a ingannarsi a vicenda per mettere le mani su Angelica, la quale, pur essendo desiderata da tutti questi cavalieri valorosi, finirà per sposare un povero fante, no? Medoro, questo giovane che Angelica raccoglie ferito, riesce a guarire con le sue arti un po' mediche, un po' magiche, perché Angelica era anche un po' maga, essendo una principessa musulmana che conosceva i segreti della magia e della medicina orientali, e sposa questo Medoro. E quando Orlando scopre che l'amata Angelica ha sposato questo povero fante, così, non molto valoroso, appunto per questo impazzisce e distrugge a mani nude un'intera foresta. Vabbè, non leggiamo il brano, insomma, in cui viene rappresentato Orlando fuori di testa, ma insomma, forse l'avete già letto o alle medie o al biennio. Tornando qui al nostro Tasso invece. Tasso rappresenta l'amore non come qualcosa di gioioso e di giocoso, ma al contrario come fonte di peccato, di inganno, di illusione e di peccato, perché Tasso, a differenza di Ariosto, è uno molto cattolico, molto, insomma, è ossessionato proprio da questa idea del peccato, anche se da giovane aveva scritto anche lui rime amorose e aveva celebrato le gioie d'amore nella favola pastorale Aminta, che noi non leggiamo perché insomma, il tempo è tiranno. Poiché lasciargli avviluppati calli in lieto aspetto il bel giardino s'aperse. Ah, ecco, praticamente Rinaldo è tenuto prigioniero dalla maga Armida in un giardino meraviglioso, pieno di gioie amorose, di fiorellini, alberelli, uccellini che cantano, eccetera. In realtà è tutta un'illusione, è tutta una magia, un sortilegio. Se vogliamo è anche molto attuale questa rappresentazione, perché in fin dei conti è realtà, è tutta realtà virtuale, è come se fosse, no, tutto un inganno, come si dice, una finzione costruita con la realtà virtuale. Poiché lasciargli avviluppati calli in lieto aspetto il bel giardino s'aperse, acque stagnanti, qui stagnanti non vuol dire acque stagnanti come per noi, acque putrefatte e maleodoranti, al contrario sono acque tranquille, ferme, mobili cristalli, fior varie varie piante. C'è la contrapposizione fra le acque immobili, i mobili cristalli che invece sono i ruscelli, splendida definizione per indicare i ruscelli, mobili cristalli, fior vari e varie piante, chiasmo, erbe diverse, apriche, cioè luminose collinette, ombrose valli, altre antitesi, apriche, collinette, ombrose valli, selve spelonche in una vista offerse. Ecco, questo è un tipico esempio della poetica tassiana, della varia unitas, ecco. Secondo Tasso, il poeta doveva essere in grado di riunire in una visione unitaria una molteplicità di elementi diversi, eterogenei, no? E qui ci riesce benissimo perché in un solo sguardo, in un solo coup d'œil, in un solo colpo d'occhio da questa idea unitaria della molteplicità di dettagli. L'arte che tutto fa, nulla si scopre, cioè vuol dire, questa è la traduzione del latino, ars celare artem, principio fondamentale. Alla lettera vorrebbe dire l'arte è nascondere l'arte. In effetti il grande musicista, per esempio, è colui che, cioè il grande violinista, il grande pianista è colui che riesce a suonare pezzi difficilissimi facendoli sembrare facili senza far sentire, insomma, la difficoltà tecnica, no? Se uno ascolta la campanella di Liszt, Franz Liszt, suonata da un grande pianista, quello è un pezzo difficilissimo, uno dei più difficili in assoluto, ma se è eseguito veramente bene da un grande pianista sembra, non dico facile, ma ecco, eseguito con naturalezza. Questo, l'arte che tutto fa, nulla si scopre, era un principio che si trovava in Orazio, ars celare artem, cioè far sembrare spontaneo e naturale, così quasi facile, ciò che in realtà è il risultato di un lungo studio, di un laborioso impegno. Stimi si mista il culto col negletto, sono naturali gli ornamenti e i siti. Si potrebbe quasi ritenere a tal punto sono mescolati il culto e il negletto, cioè il ricercato e il trascurato, sarebbe la ricercatezza e la trascuratezza, insomma. Sono naturali gli ornamenti, i siti, cioè gli ornamenti, i luoghi sembrano quasi solo naturali perché in essi si mescolano la ricercatezza e la trascuratezza. Di natura arte par che per diletto l'imitatrice sua scherzando imiti. Anche Aristotele scriveva che a volte la natura opera come arte, no? A volte la natura opera come arte. A volte sembra che la natura imiti l'arte più di quanto l'arte non imiti la natura. Qui Tasso, giocando su questo concetto, dice: questo giardino sembra arte di natura che per diletto scherzando imiti la propria imitatrice. Cioè sembra quasi che, insomma, la natura imiti l'arte, la quale a sua volta imita la natura. È come un gioco di specchi, insomma, no? Due specchi che si riflettono a vicenda, un po' come in quel bellissimo dipinto di Carlo Maria Mariani, il mio dipinto preferito, La mano che ubbidisce all'intelletto. Quello in realtà è un verso di Michelangelo, La mano che ubbidisce all'intelletto, perché Michelangelo era anche poeta, ma è anche la frase che dà il titolo al dipinto di Carlo Maria Mariani, la mano che ubbidisce all'intelletto, cioè due splendide figure maschili che si dipingono a vicenda, e insomma c'è proprio questa idea dell'arte come specchio di se stessa, quindi arte come specchio di uno specchio, insomma, riflesso di un riflesso, copia di una copia, insomma. Di natura arte par che per diletto l'imitatrice sua scherzando imiti. Insomma, questo stile così illusorio e apparentemente cerebrale o addirittura contorto è tipicamente manieristico, vedete? L'aura non c'altro è della maga effetto, l'aura che rende gli alberi fioriti. L'aura, questa immagine della genitabilis aura, cioè l'aria feconda che porta i pollini, che porta la vita, è un'immagine virgiliana, dice l'aria al pari di tutto il resto è un effetto della maga, questa aria che rende gli alberi fioriti, coi fiori eterni eterno il frutto dura, e mentre spunta l'un l'altro matura. Si è notato che qui Tasso riecheggia la descrizione omerica dei giardini di Alcinoo, no? I giardini di Alcinoo. Questi fiori sono eterni, cioè, perché sono fiori concepiti dalla mente di un artista, quindi sono come, un po' come dirà Mallarmé, no? Se un poeta dice fiore, quel fiore è assente da ogni mazzo, cioè non è un fiore reale, è un fiore ideale, un fiore è come l'archetipo del fiore, insomma, l'ideale, il modello eterno del fiore. Nel tronco stesso e tra la stessa foglia sovra il nascente fico invecchia il fico. Pendono a un ramo con dorata spoglia, l'altro con verde, il nuovo, il pomo antico. Insomma, i frutti vecchi, i frutti nuovi spuntano su quelli vecchi e mostrano gli uni e gli altri il proprio rigoglio. Qui è proprio letterale la citazione, non lo dico nelle note, ma comunque, insomma, qui Tasso praticamente traduce i versi di Omero che descrivono i giardini di Alcinoo. Lussureggiante serpe alto germoglia la torta vite, ov'è più l'orto aprico. Serpe è un verbo, la voce del verbo serpere, serpeggiare, un latinismo molto, dice la vite ritorta serpeggia in alto, alto ha valore avverbiale, e germoglia là dove l'orto, cioè il giardino, è più luminoso, aprico. questa immagine della, della questa immagine così serpeggiante, no? Tipica della, dell'iconografia manieristica e poi barocca, no? Quella che diventerà la colonna tortile barocca, ma la linea serpentinata è tipica della, dell'immaginario così manierista. Qui l'uva in fiori acerba e qui d'or lave e di piropo e già di nettar grave. Quindi qui la vite ha l'uva ancora acerba, qui l'ha già dorata e già piena di nettare, cioè di liquido, cioè pronta a trasformarsi in vino. Non mi ricordo mai che cavolo sia il piropo. Il piropo, pietra di colore rosso. Cioè, qui vengono colte le diverse sfumature cromatiche dell'uva a seconda degli stadi della maturazione. Vabbè. Veziosi augelli fra le verdi fronde. Qui questa è una evidente eco petrarchesca, no? L'aura soave che fra verdi fronde mormorando a ferire nel volto viemme. Temprano a prova la scivette note, cioè gli uccelli fanno come a gara nell'intonare canti d'amore, la scivette note. Mormora l'aura, questa è un'eco petrarchesca, no? L'aura soave che fra verdi fronde mormorando a ferire nel volto viene, c'è anche un madrigale di tasso, ecco mormorar l'onde e sussurrar le fronde, uno di quei madrigali che furono musicati, come del resto l'episodio di Tancredi e Clorinda, da Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi, grande compositore fra manierismo e barocco, che di fatto diede inizio al, al melodramma fondendo, no, il testo e la musica, e questa fusione fra il senso delle parole e le sensazioni trasmesse dalla musica si trova anche nel madrigale rappresentativo il combattimento di Tancredi e Clorinda, e è anche nei madrigali di Tasso che furono musicati da Monteverdi, e vi metterò, o vi ho già messo lì in didattica i collegamenti. Allora, quando tacciono gli augelli alto risponde, quando cantano gli augei più lieve scote, si è caso d'altro accompagna d'ora, alterni versi loro la musica ora. Ora, dal latino aura, è un latinismo molto ricercato, insomma c'è come un concerto, un'armonia tra il vento che soffia tra le foglie e il canto degli uccelli. Vola fra gli altri con che le piume a sparte di color vario, da purpuro il rostro. Insomma, qui c'è un pappagallo, il pappagallo è proprio simbolo della finzione, dell'artificio, perché il pappagallo è in grado di contraffare la voce umana, quindi è proprio un tipico simbolo dell'artificio, della finzione. Vola fra gli altri con che le piume a sparte di color vario, da purpuro il rostro, cioè il becco, e lingua snoda in guisa larga, e parte la voce, sì che assembla il sermon nostro, cioè assomiglia al nostro linguaggio umano. Questi ivi allor continuò con arte tanto il parlar che fu mirabil mostro. Il mirabil mostro non è nel senso di mostro come un mostro, no, è il mostro di monstrum, cioè uno spettacolo straordinario, mirabil mostro. Tacquero gli altri ad ascoltarlo intenti e fermarono i sussurri in aria ai venti. Tutto tace, tutto si raccoglie nell'ascolto del canto del pappagallo. De mira gli cantò a spuntare, ovviamente non dice che sia un pappagallo, ma insomma, vabbè, dalla descrizione. De mira egli cantò a spuntare la rosa dal verde suo modeste virginella, che mezzo aperta ancora, mezzo ascosa, quanto si mostra me intanto più bella. Ecco poi nudo il sen già baldanzosa di spiega, ecco poi langue non par quella non par chiasmo, vedete, che desiata in anti fu da mille donzelle e mille amanti. Cioè la rosa nel momento in cui spunta è così bella, fresca, rorida, desiderata da tutti, poi però col passare del tempo non è più quella di prima, appassisce, illanguidisce e non è più così desiderabile. Così trapassa il trapassare d'un giorno della vita mortale il fiore, il verde, Insomma, noi siamo come le rose, insomma, questo è un motivo che verrà ripreso dalla poesia francese, no? Ronsard, che dice: «Qui est le fleur de la vie», no? Dice: «Cogliam d'amour, cogliam d'amour la rosa», no? È proprio qui. Così trapassa il trapassare un giorno della vita mortale il fiore e il verde, cioè vuol dire la giovinezza, come diceva già Lorenzo il Magnifico, no? La giovinezza che passa in un battibaleno. Né perché faccia indietro, più il ritorno si rinfiora e la maina esce in verde, mentre la primavera si rinnova continuamente, no? Mentre il tempo della natura è scandito da questa ciclicità, da questi continui ritorni, da questo continuo ringiovanire, Proserpina che torna sempre sulla terra ogni 6 mesi, invece la giovinezza dell'uomo, ahi noi, non torna mai. Cogliam la rosa sul mattino adorno di questo dì, che tosto il serem perde. Cogliam d'amor la rosa. Amiamur quando esser si puote riamato amando. Qui probabilmente Tasso riecheggia il Per Vigilium Veneris, straordinario testo della tarda latinità, testo di incerta attribuzione, ad ogni modo. C'è questo gioco di parole intorno al verbo amare che fa pensare, amare, amore fa pensare un po' a Dante, no? Amor canula, amato, amar, perdona. Ma il senso qui è molto, molto, molto diverso, no? Non c'è più l'idea medievale, no? Dell'amore che deve essere corrisposto, che merita di essere corrisposto qualora sia puro e sincero. Qui c'è al contrario il senso classico e poi rinascimentale della fugacità del piacere terreno. Tacque e concorde degli augelli il coro, quasi approvando il canto indi ripiglia. Raddoppian le colombe i baci loro, ogni animal d'amar si riconcilia. Par che la dura quercia, il casto alloro, tutta la frondosa ampia famiglia, cioè l'insieme del mondo vegetale, par che la terra e l'acqua e formi e spiri, dolcissimi d'amor sensi e sospiri. Queste allitterazioni sono di gusto chiaramente petrarchesco, no? Fanno pensare voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ond'io nutriva il cuore, fra melodia si tenera, fra tante vaghezze, cioè bellezze, allettatrici e lusinghiere, va quella coppia, e rigida e costante se stessa indura i vezzi del piacere, cioè Armida Rinaldo, il guerriero Rinaldo, guerriero che ormai è divenuto così, non più guerriero ma amante, ormai rammollito, insomma, diciamo rigido e costante, se stessa indura i vezzi del piacere, cioè si abbandona senza sosta e senza pausa ai piaceri amorosi. Ecco tra fronde e fronde il guardo inante penetra e vede, o pagli di vedere, vede pur certo il vago e la diletta che gli è già in grembo. Che gli è in grembo alla donna, essa all'erbetta. Notate questa visione così incerta, tremolante, tra fronde e fronde, penetra e vede o pargli di vedere, una visione illusoria, tipicamente manieristica, no? Ella dinanzi al petto al vel di viso, e il che mi sparge incomposto al vento estivo. L'anguo pervezzo e il suo infiammato viso fan biancheggiando i bei sudor più vivo. Qual raggio in onda la scintilla un riso negli umidi occhi tremulo e lascivo. Dice: no, ma Armida ha i capelli abbandonati al vento estivo. L'anguo pervezzo, cioè come finge di essere sul punto di svenire, dice: il suo volto infuocato. Reso ancora più vivido, più intenso dal pallore dei leggiadri sudori. Qual raggio in onda le scintilla un riso negli umidi occhi tremulo e lascivo, cioè il desiderio che trema nello sguardo della donna è simile alla vibrazione luminosa della luce sulle onde. Ecco. Sono immagini estremamente ricercate che fanno già presagire la grande stagione barocca, insomma, sembra quasi di leggere un grande barocco spagnolo, il grande Gongora, ad esempio, che sarà il massimo maestro di questo stile, così anche molto contorto, se vogliamo, ma nello stesso tempo affascinante, sensuale, ecco, ma anche molto difficile. Solo fra lui pende, ed è nel grembo moglie le posa il capo, e il volto al volto attolle, cioè solleva, avvicina. Qui Tasso si ricorda con tutta probabilità della rappresentazione lucreziana di Venere e Marte, e i famelici sguardi avidamente in lei pascendo si consuma e strugge. Cioè, qui no, praticamente Rinaldo è come consumato dall'amore osservando la maga Armida. Si inchina e i dolci baci ella sovente liba, cioè beve sarebbe, or dagli occhi e dalle labbra orsugge, ed in quel punto il sospirare si sente profondo sì che pensi, or l'alma fugge in lei trapassa peregrina. Ascosi mirano i due guerrieri gli atti amorosi, perché due guerrieri erano andati là nel giardino di Armida per cercare di recuperare Rinaldo, che stava là, aveva smesso di combattere, e questi due guerrieri, che erano per la precisione Carlo e Ubaldo, ecco, i due crociati Carlo e Ubaldo erano stati mandati in missione per andare a rompere le scatole al povero, mica tanto povero, ma insomma a Rinaldo, che se ne stava là con Armida anziché andare a combattere. Ovviamente c'è un valore simbolico in tutta la storia, perché insomma la morale della favola è che uno non deve perdere tempo ed energia nell'amore, ma deve pensare ai grandi ideali religiosi, cioè andare a liberare il Santo Sepolcro. Allora, ecco, vedete, qui viene descritto il bacio perfetto, come dice Marsilio Ficino nel Trattato sopra l'amore, grande testo del platonismo, no? Marsilio Ficino dice: nel bacio perfetto ciascuno dei due amanti dovrebbe avere la sensazione che la propria anima si trasferisca totalmente nel corpo dell'amato. Quindi simbolicamente, allegoricamente, ciascuno dei due amanti dovrebbe morire in se stesso e rivivere nel corpo dell'altro. Cioè, il bacio simbolicamente dovrebbe essere come uno scambio di anime, diciamo, ciascuno dovrebbe morire a se stesso per rinascere metaforicamente, insomma, nel corpo dell'altra persona, insomma, le due anime dovrebbero come fondersi in una sola. È un po' quello che si vedrà in un contesto completamente diverso in Canova, cioè la rappresentazione di amore e psiche, la famosa statua di Canova. Lì le labbra non si toccano nemmeno, però c'è questa meno, insomma, uno può immaginare che lì venga rappresentato questo scambio proprio di spiriti, di anime, di soffi vitali, amore psiche, insomma, amore e l'anima, con tutti i sovrasensi allegorici anche che ci sono, mistici, insomma. Dal fianco dell'amante estraneo Ernese un cristallo pendeva lucido e netto. Ecco, lo specchio come simbolo della finzione e anche della vanità. In uno di quegli affreschi che ci sono lì a Palazzo Liverani, cioè nella sede del classico, no? Ci sono quegli affreschi tanto trascurati, tanto, insomma, nessuno presta attenzione a quegli affreschi. Io anni fa feci un piccolo studio sulle simbologie di quegli affreschi, tutti mi prendevano in giro per questa cosa, come se fosse una cosa ridicola occuparsi di quegli affreschi, io allora lasciai perdere. Comunque lì c'è una figura, sono molto interessanti quelle allegorie di quegli affreschi, e lì c'è anche una figura con lo specchio, no? Che potrebbe rappresentare proprio la vanità, no? la fanciulla con lo specchio lì. Allora dice: dal fianco dell'amante sta Ernese, fra l'altro allo specchio è anche la maschera, quindi la finzione e la vanità, insomma, l'immagine illusoria, ecco. Dal fianco dell'amante estraneo Ernese un cristallo pendeva lucido e netto, cioè estraneo Ernese vuol dire oggetto strano, singolare, bizzarro, ma anche ricercato, prezioso. Cristallo nel senso di specchio. Sorse e quel fra le mani a lui sospese i misteri d'amor ministro eletto. Lo specchio è ministro ai misteri d'amore, cioè vuol dire che, insomma, l'amore si basa sull'immagine, si basa sull'esteriorità, fondamentalmente si basa su un'illusione. con luci ella ridenti e con accese mirano in vari oggetti un solo oggetto. Quindi lei con uno sguardo ridente e lui con uno sguardo infiammato dall'amore contemplano in vari oggetti un solo oggetto, cioè praticamente questo specchio, un po' come diceva anche Leonardo da Vinci nel Trattato della pittura, cioè la pittura dovrebbe essere come uno specchio, come una cosa naturale riflessa in un grande specchio, ecco. Il quadro perfetto dovrebbe essere come un vasto specchio che riesce a raccogliere in sé e ad armonizzare tante immagini diverse. Questo specchio rappresenta anche la poetica tassiana, proprio la molteplicità nell'unità e viceversa l'unità nella molteplicità, la varia unitas, no? Dice, ella del vetro a sé fa specchio e gli occhi di lei sereni a sé fa spegli, cioè la donna si specchi, si riflette nello specchio e l'uomo, praticamente l'amante specchia se stesso, riflette se stesso negli occhi dell'amata. L'uno di servitù, l'altra di impero si gloria, ella in se stessa ed egli in lei. Vedete, c'è questa corrispondenza. Praticamente l'innamorato si gloria di essere servo, la donna invece si gloria, si compiace di essere la dominatrice. Cioè, è chiaro che nel gioco d'amore è sempre la donna la dominatrice, cioè, c'è poco da fare, no? Come dice Dante nel fiore, sempre che il fiore sia di Dante, no? Donna del gioco, nel senso di donna del gioco, domina, donna nel senso di domina, cioè sempre la donna che domina, cioè che la colei che tiene il banco, insomma, nel gioco d'amore. Allora, ella in se stessa ed egli in lei, cioè, perché appunto la donna vede riflessa se stessa nello specchio, mentre l'innamorato vede riflesso se stesso negli occhi della donna, no? Volgi, diceva, da volgi il cavaliero a me quegli occhi onde beata bei, gioco di parole dantesco che fa pensare alla Beatrice di Dante, anche se qui non c'è nessun significato teologico, questa è una beatitudine interamente, radicalmente umana. Che son, se tu non sai, il ritratto vero delle bellezze tue, gli incendi miei. Cioè, l'innamorato dice alla donna amata, guarda me, perché le mie fiamme amorose, il mio incendio d'amore è il più autentico riflesso, lo specchio più veritiero della tua bellezza. La forma lor la meraviglia pieno, più che il cristallo tuo mostra il mio seno. Cioè, il mio cuore rispecchia, riflette ancor più del tuo specchio la tua bellezza. Deh, poi che sdegni me, com'egli è vago mirare attualmente potessi il proprio volto, che il guardo tuo, che altrove non è pago, gioirebbe felice in sé rivolto. Dice, ah, se tu potessi vedere te stessa direttamente, vedere te stessa come un'altra, anziché vedere la tua immagine riflessa, dice, allora sì, saresti felice. Non può specchio ritrarsi dolce imago, né in picciol vetro è un paradiso accolto. Specchio te degno il cielo, nelle stelle puoi riguardare le tue sembianze belle. È inutile che tu cerchi di riflettere, di rispecchiare la tua bellezza in uno specchio, soltanto le stelle del cielo potrebbero degnamente rispecchiarla. Ridermi da quel dir, ma non che cesse dal vagheggiarsi e dai suoi bei lavori, poiché intrecciò le chiome e che ripresse con ordin vago i loro lascivi errori, cioè errori, qui per errori si intendono i movimenti dei capelli nel vento, insomma, dei capelli sciolti, torsi in anella i fin minuti in esse, quasi smalto sull'or con sparsi i fiori, e nel bel sen le peregrine rose sé ai nativi gigli e il vel compose. Quindi praticamente i fiori sono come smalto, i fiori di cui Armida adorna i propri capelli sono come smalto sull'oro, perché Armida è bionda, dice, e aggiunse le rose, intese come fiori, ai gigli dei propri seni e ricompose il velo. Qui continua ancora un po', ma noi ci fermiamo qua. Ah, qui avete anche in questo PDF che vi ho messo qui, Rinaldo Armida di Annibale Carracci, tipico esempio di manierismo ormai proiettato verso il barocco. C'è anche il commento, qua, lo stile pre-barocco, insomma. Ecco. È chiaro che fare una parafrasi letterale di questa poesia non ha alcun senso, cioè è un rompicapo inutile, insomma, bisogna semplicemente abbandonarsi al fluire delle immagini e delle parole e anche dei suoni, insomma, e cercare di cogliere l'essenziale, insomma, abbandonarsi a questa onda musicale, perché altrimenti diventa proprio come risolvere degli indovinelli, no? Inutile dire che Rinaldo tornerà a combattere con i crociati, anche Tancredi dopo la morte, dopo aver ucciso Clorinda, senza sapere che si trattava appunto di Clorinda, si abbandonerà alla disperazione più totale, smettendo di mangiare e di bere, piangendo ininterrottamente. Arriverà Pietro l'Eremita, figura realmente esistita, e Pietro l'Eremita riuscirà a convincere anche Tancredi a tornare a combattere. Ci sarà la processione al Monte Uliveto, una processione che segna un po' la svolta della guerra, e alla fine i crociati riusciranno a conquistare Gerusalemme, a liberare il Santo Sepolcro. La differenza fondamentale è questa: l'Orlando Furioso, anche perché incompiuto, rimane un'opera aperta così, senza una vera e propria conclusione, e anche con una struttura e un andamento tipicamente zigzaganti, come diceva Italo Calvino, che scrisse pagine interessanti su Orlando Furioso. Anche l'opera di Calvino, che a me non piace molto, ma comunque, insomma, anche l'opera di Italo Calvino è piena di richiami al poema di Ariosto. Ma ecco, mentre l'Orlando Furioso resta un poema così caotico, senza un centro, senza un ordine ben preciso, impossibile da riassumere, c'è questo motore mobile, si potrebbe dire, che è Angelica, che fugge in continuazione, e viene inseguita inutilmente dai vari cavalieri. E metterò anche lì in didattica il collegamento alla versione filmica che fu fatta dell'opera dell'Orlando Furioso, appunto. Ne fu tentata una trasposizione filmica, che rende bene questa mobilità e anche questo artificio, insomma, questi cavalieri in perenne movimento. Ecco, invece, Tasso, la Gerusalemme liberata di Tasso è molto vicina al modello dantesco nella struttura, perché è un poema chiuso, anche se con il centro lievemente spostato verso la conclusione, perché il fulcro è la processione al Monte Uliveto, spostata di un canto, non è esattamente a metà, è spostata di un canto verso la fine, quindi c'è una lieve dissimmetria tra le due parti, ma c'è comunque un percorso, un cammino lineare che conduce, come era preannunciato fin dal proemio, alla vittoria dei crociati e alla liberazione del Santo Sepolcro. Quindi almeno abbiamo dato un'immagine d'insieme del Rinascimento maturo nel suo splendore, nella sua armonia, ma anche nella sua sottile autoironia con Ariosto, e dall'altro lato invece con Tasso abbiamo visto un esempio della sensibilità manierista molto più irrequieta, chiaroscurale, cupa e anche angosciata. Non a caso i romantici, in particolare Leopardi, ma Leopardi un po' apprezzava anche Ariosto per certi aspetti, lo riecheggia in alcune operette morali, il Copernico ad esempio, ma era molto più, insomma, la sensibilità romantica era molto più vicina alle inquietudini e alle angosce di Tasso. Adesso metto, sperando che vada tutto bene, questa audio lezione in didattica, e poi ne farò un'altra su Machiavelli e Guicciardini, anche quelli mettendoli in parallelo, mentre vabbè, il Barocco e Galileo li farete, insomma, non so con chi, non so se con me o con un altro, comunque li farete evidentemente l'anno prossimo. Per ora a risentirci.